E amen. Amen. Vogliamo accomodarci. Buona Pasqua anche da parte mia. Questo è il saluto di questi giorni. Buona Pasqua è il saluto di chi crede. E buona Pasqua è il saluto di chi non crede in questi giorni. Buona Pasqua è il saluto di coloro la cui vita è cambiata e trasformata radicalmente dalla risurrezione di Cristo. E buona Pasqua purtroppo è anche il saluto di coloro che non hanno vissuto un cambiamento in virtù di quella risurrezione. Viviamo in una nazione religiosa. Viviamo in una nazione dove ogni anno viene ripetuta questa cerimonia, questa celebrazione, e dove viene ricordato ogni anno quello che è accaduto 2000 anni fa, la morte di Gesù e la sua resurrezione. In questi giorni un terzo della terra è ferma per celebrare, nazioni come la nostra si ferma dal lavoro interi giorni per ricordare religiosamente quello che è accaduto 2000 anni fa. In tempi di Covid tutto questo assume una forma mediatica importantissima. I canali televisivi principali trasmettono le cerimonie, le celebrazioni che hanno a che fare con la Pasqua, con la morte e la resurrezione di Cristo, il ricordo di quello che è accaduto. Qualche giorno fa ero con mia moglie, vedevo la cerimonia che veniva trasmessa dal Vaticano. E sentivo queste bellissime, straordinarie parole che hanno cambiato la mia vita. E pensavo in quel momento che come me, altre migliaia, centinaia di migliaia, se non milioni di persone, stavano ascoltando quelle parole. E mi sono chiesto che cambiamento porterà tutto questo. Quante vite saranno trasformate dal ricordo della storia di Cristo Gesù che è morto e poi è risorto. Ed è mia convinzione che il ricordo religioso della morte e della resurrezione di Cristo non porta cambiamento nella vita di nessuno. Ricordarci oggi quello che è accaduto 2000 anni fa non cambierà la tua vita. È una storia che conosciamo, è una storia che ci è stata raccontata da quando eravamo piccoli. Io sono nato, cresciuto in chiesa e ho sempre saputo la storia di Gesù. Non è il ricordo della sua storia che può cambiarci oggi. Forse sei qui e mi stai guardando a queste belle parole che si sono ribaltate. È la storia meravigliosa di Grazia che è stata guarita dalla depressione, la storia meravigliosa di Clarissa che ha vinto un lutto attraverso il bene, l'amore di Dio, e ti stai chiedendo: ma come io posso cambiare? Come le circostanze nella mia vita possono cambiare? E la risposta a questa domanda la troviamo in Romani 8 e voglio leggervela. Ed è fondamentale che noi leggiamo dando il giusto peso a queste parole, perché qui noi troviamo la risposta a ogni desiderio di cambiamento che vorremmo nella nostra vita. La parola di Dio dice: se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo Gesù dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Così dunque, fratelli, non siamo debitori alla carne per vivere secondo la carne, perché se vivete secondo la carne voi morrete, ma se mediante lo Spirito fate morire le opere del corpo, voi vivrete. Infatti tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. La parola di Dio è chiara. La parola di Dio è chiara e ci rivela che la potenza non è nel ricordarci una storia. che la potenza trasformatrice di cambiamento non sta nel ricordarci quello che è accaduto 2000 anni fa, non sta nelle belle parole di quella storia e di quanto è accaduto in Cristo Gesù. La potenza di cambiamento è nello Spirito Santo. Vuoi cambiare oggi? La risposta è nello Spirito Santo. Se vuoi cambiamento nella tua vita, il cambiamento della resurrezione di Cristo consiste in questo: che tu ricevi lo stesso Spirito che ha risuscitato Lui dai morti. Questo è cambiamento. Quando lo Spirito che ha risuscitato Cristo dai morti entra in te, abita in te, dimora in te, allora tu hai la possibilità di vivere cambiamento e di passare dalla ribellione all'adozione, ad essere amati da Dio, e di passare dalla morte alla resurrezione, e di passare dalla depressione alla guarigione, da essere figli d'ira ad essere adottati e salvati in Cristo Gesù. Questo è quello che accade solo quando lo Spirito Santo viene ad abitare in noi. Non quando conosciamo una storia e ripetiamo quella storia e celebriamo quella storia in maniera religiosa. E non sto condannando le religioni. Io sto condannando, se possibile, la nostra religiosità. Questa Pasqua può portare cambiamento in te e in me solo se lo Spirito Santo viene ad abitare in noi pienamente. Perché sapete una cosa? Purtroppo, tristemente, martedì la maggior parte delle persone che ha ascoltato quelle parole e ha celebrato quelle messe, quelle cerimonie, tornerà alle loro paure, alla loro depressione, alla loro angoscia, alle loro vite non cambiate, ai loro matrimoni rotti, alle loro relazioni che non funzionano, alle debolezze della carne, alle dipendenze, alle ansie e agli antidoti di quelle ansie, di quelle paure, in un circolo di morte che non si ferma mai, a meno che lo Spirito della resurrezione viene ad abitare, ha accesso. Vuoi cambiare? Vogliamo scrollarci di dosso la religiosità di una chiesa che ricorda quello che Gesù ha fatto, ricorda la sua resurrezione, ma non ne prende i benefici? Vogliamo scrollarci di dosso il fatto che sappiamo così tante cose di Dio, ma poche cose le facciamo nostre, ne beneficiamo? Vogliamo vivere questo tipo di cambiamento? Allora abbiamo bisogno dello Spirito Santo. Io ho bisogno dello Spirito Santo oggi, tu hai bisogno dello Spirito Santo oggi, oggi. Noi abbiamo bisogno dello Spirito Santo. Abbiamo sentito da Clarissa, il male peggiore che viviamo è il peccato. È il peccato che regna dentro di noi. È il peccato che domina le nostre giornate. È il peccato che ci porta a non amare. È il peccato che ci porta a dividerci, a separarci, a tradirci. È il peccato che ci porta a vivere vizi, dipendenze, a vivere nella carnalità, a vivere nella fornicazione, a vivere nel dominio della pornografia. È il peccato che ci porta a quelle bugie e a quelle trappole che sabotano il nostro destino di vita, il nostro futuro glorioso di vita piena per il quale Gesù è morto ed è risorto. Gesù vuole per me e per te che noi accogliamo e viviamo quel destino di vita pieno, che al di là delle circostanze, al di là di quello che il mondo vive, ha sempre la possibilità di essere raggiante, perché Gesù dice: tu sei luce, io sono luce, tu sei sale, io sono sale. Noi siamo la speranza, noi riflettiamo la speranza in quanto ambasciatori del regno di Dio su questa terra. Ma com'è possibile vivere tutto questo? Non è possibile nelle tue forze. il male che domina in te non lo puoi vincere da solo. Il male che domina nelle nostre vite, nelle nostre giornate, le nostre debolezze carnali e tutto quello che ho elencato e anche quello che non ho elencato, ma che sai che vive nella tua vita, lo possiamo vincere mediante una potenza maggiore della nostra forza di volontà e autodisciplina. La forza è nella potenza dello Spirito Santo. La forza è nella collaborazione con lo Spirito Santo. Per questo che quello che abbiamo detto, quello che abbiamo letto dice Romani 8:13, se mediante lo Spirito fate morire le opere del corpo, allora voi vivrete. E questa frase è importante. Perché questa frase non sta dicendo se fai morire le opere del corpo allora vivrai, come se fosse una cosa che decidi di fare tu nelle tue forze. Ma questo verso non dice neanche se lo Spirito Santo fa morire le opere del corpo allora tu vivrai. Il verso dice se mediante lo Spirito fate morire le opere del corpo, voi vivrete. Questo verso ci rivela che è una collaborazione. È il tuo entrare in collaborazione con lo Spirito Santo. È il tuo dire e decidere, io non cammino più da solo. Io non faccio più quello che i miei desideri, quelli che i miei pensieri mi trascinano a fare, io faccio quello che lo Spirito Santo mi dice di fare. Io non faccio più quello che voglio fare, io muoio a me stesso, alle mie opere, perché so che non sono debitore alla carne, come abbiamo letto prima. E perché non siamo debitori alla carne? Perché la carne non ha nulla di buono da darci. I desideri della carne, i peccati, la nostra ricerca forsennata di trovare un appiglio, una sicurezza nelle cose passeggere, nel denaro, negli idoli di questa terra, non danno nessuna sicurezza, sono effimeri. E noi non viviamo per questi, noi viviamo nella sicurezza e nella certezza della guida dello Spirito Santo che ci mostra diversamente come vivere, cosa desiderare, per cosa agire, cosa fare. Se mediante lo Spirito fate morire le opere del corpo, voi vivrete. Con lo stesso Spirito che ha risorto Cristo Gesù dai morti, perché la morte non poteva contenerlo, non poteva afferrare Cristo in quanto ha vissuto nella santità. Quello Spirito che ha rianimato Cristo Gesù è lo stesso Spirito che viene ad abitare in noi. E se non abita in te, per vivere una trasformazione di vita piena, devi accogliere lo Spirito Santo. Ma se vive già in te, devi accogliere il progresso di quel cammino che Lui ha in mente per te, scegliendo ogni giorno di rinnovare questa alleanza. Ed è così che vieni trasformato di gloria in gloria. Noi oggi, per quante facce vedo di persone che hanno accolto lo Spirito Santo, abbiamo da rinnovare questa scelta e dire io oggi scelgo ancora una volta di morire a ciò che è passeggero, a ciò che è menzogna, a ciò che mi imprigiona, a ciò che mi porta a un destino di vita che è di morte, che mi appiattisce a quello che vivono la maggioranza. Io scelgo di morire a tutto questo per accogliere la vita piena che mi è data nella collaborazione con lo Spirito Santo. Oggi dobbiamo fare questa scelta se vogliamo che la Pasqua abbia un senso, se vogliamo che la Pasqua produca cambiamento nella nostra vita. Se poi non lo vogliamo, rimane una scelta nostra. Collaborare con lo Spirito Santo significa ascoltarlo. Collaborare con lo Spirito Santo significa avere intimità con Lui. Collaborare con lo Spirito Santo significa morire a noi stessi. Collaborare con lo Spirito Santo significa mettere al centro la parola di Dio. In Efesini al capitolo 6 c'è scritta descritta l'armatura del cristiano. E in ogni sua parte c'è descritto il significato dell'elmo, della corazza, dei sandali, dei calzari, dello scudo. E c'è una sola arma che questo soldato ha, una sola arma per infliggere attacco al nemico, ed è la spada. E vi ricordate cosa c'è scritto in Efesini 6 della spada? La spada è lo spirito. E lo spirito è la parola di Dio. Vuoi vincere contro il nemico, vuoi conquistare nuovi territori, vuoi cambiare, vuoi ribaltare la tua storia, hai bisogno dell'arma, della spada, dello Spirito Santo, che è alimentata attraverso le verità della parola di Dio. Gesù ha detto: conoscerete la verità e la verità vi renderà liberi. Quando leggiamo la parola di Dio non stiamo leggendo un libro qualunque. Quando ci cibiamo della parola di Dio non stiamo cercando nuova conoscenza in quello che può essere un libro ricco di storie, ricco di belli esempi e di belle testimonianze, di storie come quella della morte e della resurrezione di Cristo. Quando noi ci cibiamo della parola di Dio, ogni giorno assimiliamo quello che la Bibbia dice, noi stiamo indossando, impugnando la spada che ci permette di sconfiggere il nemico che viene brutalmente, violentemente contro di noi, contro i nostri matrimoni, contro le nostre famiglie, contro i nostri figli, contro il nostro stato d'animo. Fratelli e sorelle, noi siamo in una guerra. Non ci troviamo a fare una passeggiata su questo mondo. Ed Efesini 6 descrive il cristiano quale soldato, perché c'è una guerra da combattere per vincere. Non puoi passivamente dire: Spirito Santo, tu puoi ogni cosa, vieni, aiutami a vincere questo peccato, questo male nella mia vita. E poi non succede dire: vedi, il Signore non risponde, non è poi così buono. È una collaborazione, è un'alleanza, ed è un'alleanza che non assomiglia a una passeggiata che noi facciamo lungo il mare. È un'alleanza che assomiglia allo scendere in una valle piena di soldati e di guerrieri che sono pronti ad ammazzarti, e tu ti allei con il miglior alleato che ci sia, con la potenza maggiore che sia a tua disposizione per combattere quei nemici e vincere. Se vogliamo che la Pasqua sia sinonimo di cambiamento e trasformazione, che non siano solo delle belle parole che si rivoltano, ma sono le nostre stesse vite che vengono messe sotto sopra, allora dobbiamo invitare lo Spirito Santo. Se ancora non l'hai fatto, invitalo nella tua vita. Invita lo Spirito Santo nel tuo cuore. E se lo hai già fatto, la parola di Dio dice: non spegnere lo Spirito. Alimenta lo Spirito. Alimenta la conoscenza di Dio, della verità sua, alimenta l'alleanza in preghiera, alimenta la partecipazione in una collaborazione dove non vai tu a dire allo Spirito Santo cosa Lui deve fare per te, ma vai tu dallo Spirito Santo per chiedere a Lui: cosa vuoi tu che io faccia? Così si vince, così si cambia e così si rivolgono completamente, come un calzino, le situazioni nella nostra vita. Vuoi che le circostanze attorno a te non abbiano l'influenza di infliggerti dolore? È in Cristo Gesù e nello Spirito che lo ha risuscitato dai morti che trovi quella forza. Vogliamo alzarci, vogliamo decidere ora, vogliamo fare un passo, vogliamo entrare in guerra. Io credo che sto facendo appello a tanti credenti che hanno perso il senso della battaglia e hanno accettato la bugia di credere non c'è la possibilità di cambiare. Ed è una bugia, la più grande delle bugie che il diavolo ci propina. Sono un adulto, oramai sono fatto così, la situazione è troppo gigante, non può cambiare. No, No, Dio dice oggi, oggi è il giorno di cambiamento, oggi è il giorno della resurrezione, oggi è il giorno del ribaltamento delle circostanze, perché lo Spirito Santo è vivo e agisce in coloro che lo accolgono. Vogliamo chiudere i nostri occhi. Se questa mattina con me dici: io voglio entrare in battaglia, non sono debitore alla carne, non gli devo nulla, non ha nulla di buono da darmi. Io voglio entrare in collaborazione con lo Spirito Santo per vivere quella vita piena a me destinata e a caro prezzo pagata da Cristo Gesù. Se questo è il tuo desiderio, dovunque ti trovi e stai ascoltando la mia voce, forse da casa, forse a Mottola, forse qui in sala, ti chiedo di alzare le tue mani e di cominciare a pregare con me. Spirito Santo, ti invitiamo. Spirito Santo, vieni ad abitare in noi pienamente, lo desideriamo con tutto il cuore. Sappiamo che in te c'è vera potenza e noi vogliamo quella potenza. Non vogliamo essere schiacciati, dominati dal diavolo, dalle bugie sue, dal peccato e dalla nostra carne. Vogliamo vivere nella vita piena che tu hai per noi, che hai conquistato su quella croce 2000 anni fa. Spirito Santo, ti invitiamo. Ti invito ora, riempi i cuori di coloro che hanno fame di te. Riempi i nostri pensieri. Riempi i nostri stati d'animo, cambiali. Rivela le bugie che vanno smascherate e vanno condannate, rimpiazzale con la verità della tua parola. Spirito Santo, parlaci, riempici, guidaci. Sii tu la nostra migliore alleanza su questa terra. Nel nome di Gesù lo prego. Forza Chiesa, preghiamo. Passiamo un tempo in preghiera mentre continuiamo ad adorare. Fai la tua preghiera. Chiedi allo Spirito Santo di riempirti. Lui ti sta ascoltando e lui ti vede. Alleluia.